se poi sì, Spiteri, chiedo scusa se non ho il nome perché non mi è stato dato. Prego. Ma nessuno risponde alla mia domanda. Come è andata la raccolta firma nelle vostre scuole? Quali problemi avete incontrato? Volevo chiedere una cosa a proposito dell'assunzione diretta del dirigente. Chiaramente i contratti sono triennali e quindi in caso di contrazione del numero degli alunni e quindi delle classi, se questi docenti che hanno carattere, cioè hanno contratto triennale, poi sono, diciamo, salvaguardati rispetto agli altri, cioè quindi non dovrebbe esistere più la graduatoria d'istituto, perché praticamente avendo un contratto triennale dovrebbero rimanere per 3 anni nella stessa sede. Grazie. Perugini Margherita. La domanda è abbastanza tecnica, perché nella mia scuola c'è un collaboratore della dirigente che insegna religione. I docenti di religione, quindi, premesso che adesso i collaboratori non possono avere più l'esonero, né quantomeno il semiesonero. Superiore? Ok? Quindi il docente di religione, collaboratore del DS, non può essere esonerato. Quando svolge la sua attività, spesso e volentieri sta fuori dalle classi, potrebbe essere sostituito? No. Ma dai potenziatori? No. Ma potrebbe essere eventualmente sostituito da un docente sul posto comune che ora non ha più le classi perché è stato messo sul potenziamento, ma che precedentemente insegnava religione alle scuole elementari, poi ha fatto il passaggio di cattedra, vabbè, adesso insegna alle superiori. Prima domanda. Seconda domanda. Ho un altro collega che è venuto su trasferimento, quindi con la mobilità, sul posto comune. Viene utilizzato come potenziatore perché il posto comune a scuola non c'era. L'anno prossimo lui potrebbe rientrare sul posto comune se qualche collega va in pensione su quella materia? Cioè lui sarà trasferito sul posto comune, ma quando è venuto a scuola quella cattedra non c'era. La cattedra non c'è praticamente, e quindi lui è stato utilizzato come potenziatore dalla dirigente. E poi un'altra cosa, per l'alternanza scuola-lavoro, appunto, i tutori interni attualmente stanno svolgendo un'attività quindi di pomeriggio, quindi in orario extracurriculare. La preside, poiché ha detto che non può pagarli perché non ci sono soldi, vorrebbe far recuperare le ore, quindi se è possibile, diciamo, recuperarle queste ore, o le deve pagare. Vogliamo fare una prima tornata di risposte, allora, e poi diamo la parola. Due domande sull'alternanza scuola-lavoro. Io non sono né esperto né molto competente. So che è stato fatto un seminario qui sull'alternanza scuola-lavoro. Per chi non ha potuto partecipare, io l'invito che posso fare è, siccome non voglio dare risposte, come dire, un po' abborracciate, tramite chi ha qualche esigenza particolare, tramite Fiorella ci manda una mail e vi faccio rispondere da chi, come dire, o rispondete voi oppure può dare risposte più serie di quelle che potrei dare io, perché non me ne occupo io e quindi non voglio dare risposte approssimate. Parto dall'ultima. Se il dirigente scolastico sceglie come suo collaboratore vicario un docente di religione cattolica, questo docente di religione cattolica lo fa nel suo orario aggiuntivo prendendo il compenso che voi decidete in contrattazione. Punto. Non esiste che non si insegna la religione perché nessuno può fare religione a posto suo. Che è la religione, è come la matematica, l'inglese, se lo viene a sapere il vicario si cavola pure, è una disciplina che fa parte del curriculum obbligatorio. Quindi non esiste che uno che non è di religione va a posto dell'insegnante di religione perché questo c'è tanto da fare e non può insegnare religione. Spero di essere. Questo non vale solo per la religione, vale per tutte le discipline per le quali non è arrivato nessuno sul potenziamento. Se io scelgo un insegnante di inglese e sull'inglese non mi è arrivato nessuno con i titoli per poter insegnare inglese, potrebbe essere anche di un'altra disciplina, ma deve avere almeno il titolo per insegnare, quindi avere almeno l'abilitazione. Potremmo discutere sulla laurea, noi diciamo che non basta la laurea, perché un conto è fare una supplenza temporanea e un conto è sostituire per tutto l'anno un docente non avendo l'abilitazione per farlo. No, il collega che lo sostituisce è un collega che ha, diciamo, l'abilità di insegnare religione. Perché ma non è un docente di religione, non... Allora, non esiste l'organico potenziato di religione, quindi la risposta è no, non dobbiamo accettare deroghe su questo. Se qualche preside si inventa cose strane, io invito il sindacato, voi, a informarlo, a fare delle diffide perché sta facendo, come dire, degli abusi. La stessa cosa, ripeto, non è solo per la religione, vale per tutti coloro che... Poi molti stanno insistendo, a me mi sono arrivate decine di mail di dirigenti che dicono ah, chiediamo al Ministero la deroga. L'anno scorso c'è stata la deroga e quindi hanno nominato i supplenti per dare il semiesonero e l'esonero per un motivo molto semplice, perché l'organico potenziato è arrivato a Natale e quindi è stata fatta una deroga, ma la legge finanziaria ha abolito tutti gli esoneri e i semiesoneri per i vicari, punto. È la legge finanziaria che lo ha fatto. Perché? Perché si sapeva che con la 107, quindi con l'organico potenziato, e siccome la legge 107 consente di usare l'organico potenziato anche per funzioni di carattere gestionale e organizzativo, il dirigente può, se ha due o tre insegnanti e gli serve una scuola particolarmente complicata e grande, un IS che ha più indirizzi complessi, vuole esonerare per un tot ore il responsabile di plesso, il responsabile di quell'indirizzo, cioè ha bisogno anche di un tot di ore funzionali, può benissimo utilizzare ore del potenziamento per fare questa roba. Poi la fa il titolare che è arrivato sul potenziamento, è improbabile, perché se è uno nuovo non è che maneggia molto le questioni della scuola, no? Probabilmente tutti, cioè chi fa attività di collaborazione, di responsabilità, eccetera, si cerca la persona magari che sta lì da due anni, che conosce la situazione. Come si fa? Allora, se io ho un docente titolare in un plesso, o sezione staccata, o un indirizzo, che ha 18 ore in classe, e voglio, ho bisogno di averlo con un po' più di tempo, non in un orario aggiuntivo pagato perché i soldi sono pochi, ma all'interno delle 18 ore, e ricavo un pacchetto di ore, 6 ore, 4 ore, dipende da come è divisibile la disciplina, e a sostituirlo in quella classe ci mando per le stesse ore uno del potenziamento della stessa disciplina, questo si può fare, ok? Poi c'è il problema che se tornassi ammala per quel pacchetto di ore non lo posso sostituire, perché il principio è che se si ammala, chi si ammala non può essere sostituito sulle ore di potenziamento, a meno che queste non siano per un progetto che coinvolga i ragazzi. Cioè, mettiamola così, qualunque attività che prevede la presenza dei ragazzi deve essere garantita. Quindi chiunque la fa lo devo sostituire. Poi un docente ha una cattedra mista, alcune ore lavora con i ragazzi anche in un progetto pomeridiano, altre ore fa un'attività di supporto al dirigente scolastico. Allora, le ore con i ragazzi lo sostituisco, quel pacchetto di ore, le altre no. Perché la legge, ripeto, non consente sulle ore, a me piace parlare più di ore che di posti, il potenziamento non consente le supplenze. Arrivo alla prima domanda alla fine. Qualcuno dice, ma che succede? L'incarico triennale, è stato dato un incarico triennale, che succede l'anno prossimo? Questo è uno dei temi del prossimo contratto sulla mobilità. se l'amministrazione non vuole spostare nessuno, calano due classi e non si perde posto, perché richiede che l'organico sia stabile e triennale, io non ho niente in contrario. Ma se l'amministrazione mi toglie, mi fa meno uno, allora io voglio contrattare il meno uno, perché si creerebbe l'assurdo che il meno uno magari va a ricadere su quello che non ha avuto l'incarico di datare, tanto non è un contratto triennale, non è che si è fatto un contratto, è un incarico triennale, e come prima si facevano le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, e ora magari le facciamo triennali piuttosto che annuali, quindi è un incarico, è una forma di utilizzazione, perché la titolarità questo docente ce l'ha sull'ambito. Quindi il docente titolare di ambito in futuro perde posto solo se su quell'ambito viene meno, perché altrimenti il problema non è perdere posto sull'ambito e avere un trasferimento d'ufficio, ma è passare da una scuola ad un'altra nell'ambito dei, qui si vede il gioco di parole, all'interno dei posti disponibili nelle diverse scuole che afferiscono a quell'ambito, ok? Conclusione, come si perderà posto, se si perderà posto, come si perderà, con quali regole dovremmo decidere nel contratto. Per quello che mi riguarda, se c'è meno uno, chi va via? Mi pare che diventi fisiologico che va via chi non è titolare nella scuola, cioè è inevitabile che sia così, no? Se io in una disciplina ho 5 titolari di scuola perché sono vecchi assunti che hanno la titolarità di scuola, e poi della stessa disciplina è arrivato qualcuno che è titolare sull'ambito e quindi non fa parte dell'organico di disciplina. Ma questa era così anche con le vecchie doppie, ma non ve lo ricordate? Con le vecchie doppie si era titolare sulla doppia e quindi in provincia. Poi tutti gli anni avevi l'utilizzazione nella scuola, se c'era il posto avevi la conferma, perché se la chiedevi automaticamente venivi confermato e quindi nessuno ti cacciava via. C'era una procedura di domanda, utilizzazione e conferma tutti gli anni. Se il posto veniva meno, il primo che non era più confermato era la doppia. Ma perché? Per il semplice fatto che non era titolare di scuola. Ripeto, io sto andando un po' a buon senso e a logica, ma lo dovremmo regolare nel contratto. Quello che per noi non è accettabile è che qualcuno gli venga in mente che la mobilità è diventata triennale. Perché, ripeto, è dal contratto nazionale del 99 che noi abbiamo scritto che la mobilità, che i sindacati si impegnano a fare una mobilità pluriennale e non tutti gli anni, ma a una condizione precisa, che l'organico deve rimanere fermo per lo stesso periodo. Cioè non è accettabile che l'amministrazione possa fare meno uno e mandare via qualcuno perché non può assumere persone in più da un'altra parte, e poi non mi consente a me di cambiare scuola. Quindi noi come problema abbiamo uno, mantenere il diritto di chi ha la titolarità di scuola potendo acquisire un'altra, sia volontariamente a maggior ragione se per lui. Due, siamo anche disponibili a non fare la mobilità tutti gli anni, ma a una condizione netta, cioè non ci deve essere discussione, che l'organico non si tocca. Se nessuno perde posto, io ci posso stare pure, perché sul principio della continuità noi ci siamo, cioè ci dobbiamo stare, non è che possiamo dire che, come dire, i desiderata dei lavoratori prevalgono sul servizio e sulla qualità, perché se no rovesceremmo, cioè la scuola è un'istituzione pubblica che ha uno scopo, una funzione, che è quella di garantire un diritto costituzionale. La continuità è un valore, ma ci deve essere entrambe le parti, non è solo che noi siamo obbligati a star fermi e l'amministrazione però se calano gli alunni mi caccia via, cioè ci deve essere, come dire, sintonia tra le due. Veniamo alla valutazione. Sì, finisco rapidamente. Allora, i criteri di valutazione, il primo intervento, i criteri di valutazione devono essere pubblici. Nella scuola tua non è stato fatto? Chiedete un incontro e chiedete spiegazioni perché non è stato ancora fatto. Perché se ancora non è stato fatto perché il dirigente è un reggente, è arrivato nuovo, c'ha problemi, non lo so, si può pazientare, dopodiché è un obbligo. Ho rimesso la slide dove ci sono le cose obbligatorie, quindi i criteri devono essere pubblici. Nessuno è obbligato a concorrere per l'acquisizione del bonus. In molte scuole abbiamo visto l'87% dei 500 che ci hanno risposto, il dirigente ha valutato sulla base di una autodichiarazione, di un'autocertificazione, poi ha valutato lì dentro a seconda di quello che i docenti hanno autocertificato. c'è pure chi sempre dato delle tabelle con dei punteggi. Quello che si ha diritto, allora qui siamo, o si è concordato o siamo nella discrezionalità del dirigente. Se il dirigente, fatta l'autocertificazione, ha valutato lui, abbiamo diritto a chiedere conto. Sta scritto lì, quante persone, quindi i nominativi. Quello che non ce l'abbiamo, ma vuol dire che deve arrivare, se non arriva si fa la differenza. Li deve pubblicare sul sito, non è che li deve dare all'RSU, li deve pubblicare sul sito. I nominativi delle persone, non deve associare il giudizio e il compenso ai singoli nomi, ma li deve raggruppare. Faccio un esempio: se il comitato di valutazione ha dato tre criteri, incarichi organizzativi, attuazione dei progetti, che ne so, innovazione e ricerca didattica educativa in classe, oppure qualcuno, successo degli alunni, si è inventato anche questo, benissimo, tre criteri con comitato di valutazione, vuol dire che tu hai dato il premio a 28 docenti? Mi devi raggruppare con nome e cognome a secondo del criterio a cui sono associati. Poi ci può essere qualcuno che rientra in due o tre criteri e quindi vuol dire che me lo collochi su due o tre criteri. L'altra cosa che devono pubblicare è la spesa complessiva di quei tre dati lì, media, moda e mediana, e range. Cioè range vuol dire il minimo e il massimo che il dirigente ha deciso se non c'è stato l'accordo. Se c'è stato l'accordo, allora spieghiamo che quello sia argomento dell'intesa con il sindacato. Comunque tutta quella roba lì c'è l'obbligo per legge di renderla pubblica. Se il dirigente non lo fa, si fa la differenza. Le leggi lo elencate prima. C'è il ministero che dice come si applica la legge 107 stessa, ce la fa. Questa sarà sul sito del ministero, aspetta, questa. Poi ci sono tutte le leggi del decreto anticorruzione e le disposizioni fatte dall'ANAC, che è l'autorità nazionale anticorruzione, che ha detto per la scuola che vanno pubblicati tutti gli incarichi. Tutti gli incarichi, si intende tutti i nominativi degli incarichi, non i noi nominativi. Quello che non dobbiamo, cioè non va pubblicato, è il compenso di Giovanna Maria Andrea Pasquale. Ma che Giovanna Maria Andrea Pasquale non fa le mani, ma questo è un obbligo. Non ci deve essere associato il compenso alla persona e neanche il giudizio individuale che il dirigente ha formulato per quella persona. Quindi criteri, nominativi, numero di persone, minimo e massimo, e raggruppamenti, cioè dati compensi raggruppati, diciamo, per non. Okay? Dopodiché, ultimo e chiudo, ho anche detto che c'è sempre il diritto all'accesso personale. Se un docente ha fatto l'autocandidatura, ha presentato quello che ha fatto e non ha ricevuto niente, deve essere lui a chiedere l'accesso agli altri. E io che non ho proprio fatto la domanda. E che vuoi, signora? È obbligatorio farla? No, dentro che non è obbligatorio. No, aspetta, potrebbe capitare il rovescio, cioè che non hai fatto niente, non ti interessa, e il dirigente te la dà uguale. Perché? Perché magari tu hai avuto una funzione strumentale o hai avuto un altro incarico, e il dirigente ha valutato autonomamente che tutti quelli che prendono la funzione strumentale gli ha dato magari altri 300 euro. Sto simulando possibili simulazioni, quindi. Allora, chi ha concorso, si è autoproposto su richiesta dello stesso dirigente, ha diritto a chiedere spiegazione. Chi non voleva nulla, non credo che non abbia interesse, al di là della pubblicità e trasparenza. No, io dico, se io per protesta, allora siccome c'è stato un momento di protesta alla fine dell'anno scolastico, che nei collegi docenti si era stabilito di. Allora, sì, ma ho capito. Allora ti dico andiamo al succo. Ci sono docenti che hanno ricevuto un compenso senza sapere perché. No, io dico bene, hanno pagato e restituito i soldi. No, io dico il contrario. Allora, c'è stato un momento di protesta alla fine dell'anno su questi soldi, no? Che, okay. Allora, in alcuni collegi docenti, anche nel mio, in un primo momento si era detto, nessuno facciamo la domanda per protesta. Congeliamo i soldi, vediamo l'anno prossimo a settembre quali sono i criteri, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa che poi non è successa, perché ci stanno sempre quelli che dicono, beh, chi la fa domanda e si chiede i soldi perché non l'ha già fatto, questo è il succo. Ora, quindi, c'è stato un numero X che l'ha fatta e un numero Y che non l'ha fatta. Ora io faccio parte del numero Y, ho mantenuto il punto di non farla per un fatto mio. Ora io dico, io personalmente, il dirigente, doveva comunque valutarmi o non valutarmi? Questa è la mia domanda. No, no, questo no, perfetto. E comunque io, in qualità di docente, per restare l'ultima domanda, io concludo solo questa domanda. Voglio sapere se io posso avere diritto di accesso all'accesso agli atti come RSU. Allora, un attimo. Come RSU? No. Siamo? Perché, scusate, perché come RSU no? Per piacere. Perché i diritti dell'RSU sono scritti nel contratto, va bene? Se andate a vedere l'articolo 6, cosa dice? Che io, la RSU e il sindacato provinciale, ha diritto ad avere l'informazione successiva sui nomi, di che cosa? Di tutti i docenti che sono stati impegnati e hanno avuto un compenso da che cosa? Dai soldi del contratto. Si chiama MOF, cioè l'insieme delle risorse che vanno da funzioni strumentali, carichi specifici ATA, ore eccedenti fisse. Lì c'è diritto a avere i nomi. Queste qui non sono risorse del contratto, sono risorse della legge 107. Siccome la 107 non ha previsto nessun diritto per l'RSU, noi diciamo che l'RSU il diritto di informazione ce l'ha su tutto. Ma insomma io non andrei a contenzioso su questo. Quindi se c'è un buon clima e un'armonia chiediamoli, ma del resto se li deve pubblicare all'altro c'è bisogno che li chiedano, perché stanno parlando. Quindi il punto dove insistere è che devono essere atti pubblici. Poi c'è il caso specifico, non lo so, il dirigente cosa ha chiesto? Qualcosa alla fine dell'anno? Ha invitato i docenti interessati a fare la domanda? No, lui mi sta dicendo di sì. No, ha detto, allora se ha detto grosso modo quali erano le linee, chi voleva fare la domanda la faceva. Quindi il dirigente si è limitato a valutare quelli che hanno fatto domanda e avranno indicato in un'autocertificazione le ragioni per cui probabilmente non è un però scusate, siccome ci sono tanti altri penso che ci ritroveremo poi su queste questioni anche a chi è in altre. Io volevo chiedere, nel caso in cui poi il dirigente abbia rigettato la domanda volontaria, diciamo, del docente e abbia messo in mano discrezionalmente sulla base dei criteri di valutazione l'assegnazione del bonus, è possibile una cosa del genere? Certo che è possibile. Cioè che lei ha rigettato questo passaggio. È un organo monocratico che decide, a cui la 107 ha affidato questi casi. Detto questo però, noi siamo assolutamente impotenti. Questo è il caso classico di diritto di accesso agli atti, perché io ho un interesse personale legittimo e chiedo di sapere io, che poi non posso pubblicare all'altro, però chiaro che altrimenti mi becco la denuncia, chiariamolo questo, perché noi sosteniamo che i dirigenti seri gli danno questa informazione al RSU, con il patto però che non va messa all'altro, perché quello è un uso improprio del dato informativo. Il contratto dice che il sindacato ha diritto all'informazione successiva al fine di esercitare la propria funzione, che è quella di verificare la corretta applicazione del contratto. Quindi io ti chiedo l'informazione perché ho bisogno di fare questa verifica, perché era da ragionare per il contratto prossimo. Metterli all'albo non ha questo scopo, è tutta un'altra roba. Tu hai concorso, hai partecipato, il dirigente ti ha risposto picche, hai tutto diritto a sapere dal dirigente perché gli altri sì, tu no, in base a quale criterio, in base a quale argomento. Se il comitato di valutazione ha messo tre criteri e tu ritieni di averne uno o due di questi, il dirigente deve spiegare perché ti ha escluso, altrimenti che fai? Gli punti l'atto del dirigente, ma lo devi fare tu come docente perché... Perché la legge dice che il dirigente assegna il bonus in attuazione dei criteri definiti dal comitato di valutazione e deve motivare perché ha dato il bonus. Allora, se tu ritieni di rientrare nei criteri definiti dal comitato di valutazione, hai fatto domanda, quindi vuoi partecipare, il dirigente... Però scusate, allora... Ci sono tante domande e ecco, abbiamo dato spazio un po' a tutti, c'era De Rosa Giuseppina che voleva... Sì. Voglio ricordare una cosa però, Presidente, perdonami. Noi con i nostri uffici di consulenza, gli sportelli, siamo dovunque. Quindi per entrare nel merito delle singole specifiche situazioni, ci sono i nostri. Vi diamo appuntamento ai nostri sportelli e con i nostri consulenti, ok? E siamo tutti a disposizione, anzi non ci potrà fare che piacere il vostro, la vostra venuta nella sede. Prego. Attenta allo scalino. Allora, forse in parte già avete risposto alla domanda, però io volevo avere dei chiarimenti in merito all'assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente. Cioè, per quello che ho capito, quindi il dirigente deve attenersi alle disposizioni qui anche del collegio, non può decidere in modo autonomo, e nell'eventualità lo facesse, il docente ha la facoltà per un motivo o per un altro di chiedere spiegazioni o comunque di rifiutare quel determinato incarico. Grazie. Castaldo Michele. Facciamo altre tre o quattro richieste, così poi il Amerigo certamente poi darà soddisfazione a queste domande. La prima domanda che volevo fare era: i due collaboratori che abbiamo detto vengono retribuiti dal POF? Volevo vedere se stavate attenti. Ma è un classico, no? Nel caso, come la mia scuola, sono 5 collaboratori, gli altri 3 come vengono retribuiti? Forse è già stato detto, quindi era un servizio, però se limita così mi vede bene. Poi, in un incontro precedente a Via Torino, avuto a Via Torino, la CGL si era impegnata a fare in modo tale che il bonus fosse stato poi anche allargato agli ATA. Volevo sapere se c'erano novità in tal senso. E poi ancora, i criteri che si... Non confondere il bonus premiale con la carta della formazione. Il bonus dei 500 euro. L'importante è che la cosa è chiara, e poi volevo sapere se è normale che i criteri del comitato di votazione ci sono stati resi noti tramite email. Questo lo volevo sapere. Grazie. Antonella Cannardella. L'anno scorso ci hanno sostenuto quando abbiamo fatto lo sciopero per le prove invalsi, i genitori sono stati solidali, però invece questa occasione non c'è stata, diciamo, possibilità. Anche con i banchetti a fuori rotta non sono state altissime, diciamo, le persone strane al mondo della scuola che sono state, diciamo, consapevoli di questa problematica. Siamo sempre visti come quelli che fanno tante ferie all'anno, siamo sempre lavoratori privilegiati, diciamo, agli occhi dell'opinione pubblica. No, io volevo invece ricordare sul tema della contrattazione, del contratto, perché io sono di scuola primaria e si parlava nei vecchi contratti, delle vecchie proposte di contratto, di unificare la funzione docente, visto che ora i requisiti di accesso sono gli stessi, no? Però questa cosa è completamente scomparsa nelle nostre discussioni. Cioè, ormai a noi ci si chiede di insegnare inglese, di avere la laurea di accesso alla di avere i requisiti per fare il sostegno, e però diciamo come primaria, anche come docenti di scuola dell'infanzia, in realtà siamo sempre quelli che lavorano di più, ma siamo anche la cenerentola sia dal punto di vista economico e rispetto al monte ore di lavoro. Domanda di interesse generale, penso. Allora, noi siamo in una situazione a scuola mia, ma in tantissime altre scuole, una situazione drammatica per il sostegno. Cioè, noi mai come quest'anno abbiamo avuto innanzitutto una perdita di docenti che già stavano da noi da anni e anni e anni con incarichi annuali, tra le assegnazioni provvisorie, le chiamate dirette, eccetera. Abbiamo perso un sacco di colleghi validissimi che tra parentesi non se ne volevano assolutamente andare, ma il problema è si sono resi conto di quello che hanno combinato? Cioè, a livello di contrattazione obiettivamente si può fare qualcosa per stabilizzare i docenti di sostegno, ma non tanto per i docenti di sostegno quanto per i ragazzi che seguono, cioè un tourbillon continuo di docenti di sostegno che cambiano in continuazione. Questi ragazzi veramente, cioè, si pensa al benessere di questi ragazzi o si pensa al benessere di non ho capito bene chi a questo punto? E questa è la prima, diciamo, è la domanda fondamentale. Cioè, si può fare qualcosa seriamente per il sostegno? Noi quest'anno stiamo chiamando docenti con la messa a disposizione, appena hanno appena preso il titolo, esperienza zero. Diciamo che più che il sostegno agli alunni, noi facciamo il sostegno ai docenti di sostegno che devono sostenere gli alunni. Una situazione drammatica. Vincitori di concorso, qua nella provincia di Napoli, 116 vincitori di concorso desapparissiti, ne hanno chiamato uno, forse due, dalla graduatoria del concorso. Allora, si può fare qualcosa a livello superiore? Ci facciamo portavoce di questa cosa, che è una cosa veramente importante. Va bene, però insistiamo. Vabbè, poi per quanto riguarda la nostra scuola, la collega Marini veramente si è impegnata moltissimo, però abbiamo avuto anche lo stesso problema, cioè docenti che insegnano a Pozzuoli ma abitano a Marana, a Quarto, a Paliano, eccetera, e quindi questa situazione qui. Però io voglio sottolineare una cosa, consideriamo i nostri colleghi, molti dei nostri colleghi, dei famosi collegi, non hanno ancora capito neanche che se vado trasferimento l'anno prossimo entrano negli ambiti. Ancora mi dicono no, ma mica noi siamo di ruolo da 20 anni, non hanno capito ancora niente. Vabbè, non vogliono capire, ditelo come volete voi, ma così è, vabbè, grazie. Grazie Luisa. Ginevra Di Mauro, e chiudiamo, diciamo, le domande. C'è ancora uno? E oggi pomeriggio, dai Giorgio, resta con noi, Giorgio, oggi pomeriggio. Molto velocemente, mi riferisco al carico potenziato e volevo sapere, nel momento in cui il collegio dovesse votare su proposta della preside, lo dico perché c'è un contenzioso, la preside vorrebbe che io facessi 5 pomeriggio di settimana dalle 2 alle 4, io ho detto massimo 2, altrimenti sarebbe perlomeno discriminatorio, ma mettiamo che il collegio decidesse che per la scuola è importante tenere la scuola aperta 5 volte alla settimana di pomeriggio, io sarei obbligata ad accettare, io o chi si trovasse in questa stessa situazione. Grazie. Allora intervenire Giorgio e chiudiamo. Allora, salve, sono Giorgio Bellomo, istituto comprensivo di Casoli. È vero, noi siamo gli invisibili come personale ATA, non perché ecco la parola, però volevo chiedere, noi perché non possiamo partecipare al bonus e alla valutazione? Ci hanno aumentati carichi di lavoro stravolgenti. Io sto a mese di lavoro, ma sembra che comunque ha fatto un anno di lavoro. e questa è la nostra voce che stiamo chiedendo come categoria del personale ATA, che chiediamo la formazione e la valutazione. Le domande per quanto riguarda la nostra scuola, vorrei avere una domanda precisa e decisa sull'articolo 7, il cambio dei pannolini. Cambio dei pannolini nell'infanzia, che ci viene chiesta ad alta voce, e come, quali sono i criteri del collaboratore scolastico del PNSD di partecipare. Grazie. Grazie Giorgio, chiudiamo e allora la parola da Federico. Volevo dire una cosa, posso chiudere la parola? Prego. A proposito degli ATA invisibili, questo che sto per dirvi non è scritto nella legge, è un mio pensiero personale, lo voglio condividere con voi. Costituire le reti di ambito con una funzione amministrativa, dal vostro punto di vista, non significa centralizzare nella scuola capofila il lavoro dell'ufficio di segreteria? Mi spiego meglio. Dal vostro punto di vista, poiché i soldi che ci arrivano dal Ministero adesso arrivano solo virtualmente, che tutte le disposizioni di pagamento vengono fatte con un clic direttamente dal centro, analogamente abbiamo l'anagrafe degli allievi che è ormai centralizzata, analogamente abbiamo il fascicolo personale, lo stato di servizio del personale centralizzato. Dal vostro punto di vista, nella mente del legislatore, in prospettiva cambia qualcosa se continuiamo a mantenere 4-5 assistenti amministrativi per istituto comprensivo e scuola autonoma minimo? O invece concentrare su un ambito di 50 scuole tutto il lavoro in una segreteria scolastica che ha una dotazione di 10 unità e che si divide i pezzi, è indifferente? E secondo voi è così poco praticabile questo allineamento nella scuola capofila delle funzioni amministrative? Io non credo che sia così poco praticabile. A proposito di ATA invisibili, guardate, il modello di scuola che traspare dalla 107 è un modello di scuola mutuato da esperienze nord europee che il personale ATA non ce l'hanno. Non ce l'hanno né in termini amministrativi né in termini di collaboratori scolastici. L'allievo arriva e affidata al tutor che è un docente, attraverso l'orario personalizzato passa il suo tempo disciplinare da un laboratorio all'altro e poi conclude il suo percorso didattica non con il titolo di studio avente valore legale come da noi, ma con il portfolio individuale, l'indicazione delle competenze maturate attraverso il percorso che ha fatto. In quelle scuole che però non sono come le nostre, paragonabili a caserme, perché quelle scuole sono piccole, con 300 alunni massimo, sono scuole di piccole comunità e sono scuole che hanno l'interesse dell'ente locale che finanzia in modo molto spinto sulla formazione e sull'istruzione dei bambini e degli allievi di tutti quelli che sono fino ai 18 anni che sono soggetti all'obbligo. Da noi si vuole mutuare come traguardo un modello che è inapplicabile, perché le nostre scuole, a seguito dei DM che si sono succeduti sul dimensionamento, sono diventate scuole caserma, cioè non abbiamo più quasi da nessuna parte la scuola con 600-700 alunni, abbiamo scuole con 8, 9, 1000, 1400, in qualche caso 1800 alunni, in un caso 2200 alunni. Non sono più contesti educativi. E allora la domanda è, ritorno alla base, ma noi siamo convinti che questo indirizzo governativo sulle politiche scolastiche sia orientata a rendere effettivamente buona la scuola, o sia invece un pacco che ci hanno dato per risparmiare e tagliare ancora? Il personale ATA nella sua invisibilità sanità e le politiche per il personale ATA, stranamente, sono strettamente connesse all'idea di scuola e di sistema scolastico che si vuole mettere in campo. Strettamente connesse. Perché se è quella la visione, spero ardentemente che non lo sia, ma nutro seri dubbi, se è quella la visione, le politiche sul personale ATA saranno quelle di accompagnare quelli che sono in servizio verso il pensionamento, quindi estinguere il ruolo e il profilo per morte naturale, e riconvertire o magari introdurre elementi di requisiti attraverso percorsi concorsuali che mettano quelli che arriveranno nella condizione di poter essere l'ufficio di segreteria per l'ambito. Non è impossibile con gli strumenti che teniamo oggi in termini di tecnologia, non è impossibile con l'accentramento che Miro ha fatto sulle risorse economico-finanziarie, non è impossibile per l'anagrafe. Poi non funziona perché si blocca il sistema, è un'altra cosa. Ma l'idea non è del tutto impraticabile. Detto questo, l'assegnazione dei docenti alle classi, guardate, è uno di quegli elementi su cui siamo ritornati tante volte, in consulenza, tête à tête, in piccolo gruppo, con la RSU. Allora, come giustamente diceva prima Verigo, la 107 impone un risvegliarsi del collegio dei docenti e della componente dei docenti all'interno del consiglio d'istituto. Perché se prima era indifferente il fatto che nel 297 del 94 c'è scritto che il dirigente assegna i docenti alle classi, sentito gli indirizzi del consiglio di istituto e le proposte del collegio dei docenti, oggi non è più indifferente. Perché mentre prima all'interno di un'organizzazione che in qualche modo calmierava gli eccessi, oggi siamo molto esposti per effetto della valutazione, per effetto di quest'onda di managerialismo che a volte abbaglia la vista e la lucidità di qualcuno, meno male che sono pochi. Allora lì c'è bisogno di individuare dei criteri che già nel consiglio d'istituto possano essere da pista, da canovaccio, perché il consiglio d'istituto è chiamato a esprimere, a indicare dei criteri per il funzionamento della scuola. Non entra, non può entrare nella materia viva dell'assegnazione del docente alla classe, ma può indicare dei criteri, per esempio quello principe, la continuità, no? L'unitarietà. Sul fondo, che poi quello è anche di legge, no? È di. Poi ci sta un altro pezzo che riguarda la formazione dell'orario, che è collaterale all'assegnazione delle classi, sono due cose diverse. Noi molto spesso ci troviamo nelle sedi RSU, terminali associativi, semplici iscritti, simpatizzanti che vengono a chiederci: ma io ho tre spacchi in una settimana, il mio tempo di lavoro è aumentato di 2 ore settimanali nette, o ancora mi hanno costruito un orario per il quale io in un quarto d'ora devo spostarmi da un presso all'altro, ma non so se ce la faccio in un quarto d'ora, perché se non c'è traffico ce la faccio, ma se c'è traffico posso impiegare 20 minuti. Se in quei 5 minuti di differenza un allievo che da orario risulterebbe assegnata a me si fa male, cosa succede? Di chi è la responsabilità? E anche lì, e lì poi veniamo al protagonismo del collegio dei docenti. Il collegio dei docenti è ancora oggi, e forse oggi più che mai, l'autore dell'organizzazione didattica della scuola, cioè la materia di come essere mediatori culturali, di come trasformare i contenuti disciplinari, le materie vive di insegnamento, in qualche cosa che sia fruibile dagli alunni, è competenza del collegio dei docenti. L'organizzazione didattica della scuola significa parlare di un orario di insegnamento di lettere o di greco che non mette insieme 4 ore di greco o 3 ore di greco, un orario che preveda interventi che non superano le 2 ore, o un orario che non preveda, per esempio nelle scuole primarie o nelle scuole medie dove fanno il prolungato, tutte le ore di insegnamento di lettere, di italiano o di storia nel pomeriggio. Cioè ci sono dei criteri di formulazione degli orari che sono molto riconducibili alla vita del personale ma anche e soprattutto ai bisogni degli allievi. E se noi come coparte del Collegio dei Docenti siamo in grado di far emergere l'importanza di quello che diciamo, non dal punto di vista del personale che hanno un po' pushback, ma dal punto di vista dell'allievo che ha bisogno di una conduzione oraria di quella materia, di quella disciplina, di quell'intervento educativo, perché parliamo anche del personale della scuola dell'infanzia e del personale educativo, quello dei convitti, bene, probabilmente noi mettiamo dei paletti sia alla costruzione degli orari sia all'assegnazione dei docenti alle classi. Ma se non c'è un reale protagonismo in questa materia, voi immaginate davvero che a fronte di una competenza definita per cui il dirigente scolastico, visti i criteri del Consiglio di Istituto, sentite le indicazioni del Collegio dei Docenti, assegna, è una sua competenza, assegna i docenti alle classi, voi pensate che ci sia un giudice del lavoro che dia ragione rispetto ad un'assegnazione? Il protagonismo si gioca nella scuola. E questo perché noi stiamo maturando purtroppo una delega non al sindacato come avveniva in passato, ma una delega agli avvocati. Cioè noi stiamo rinunciando a un protagonismo reale all'interno delle unità scolastiche che sono il nostro ambiente professionale a vantaggio di una delega, di uno spostamento del problema nelle mani dell'avvocato, della CGL, dell'ANIEF, della UIL, di quello che sia, dell'avvocato privato. Non andremo lontano in questo modo. Per andare lontano e cercare di fissare dei paletti all'aggressione sistematica della scuola pubblica di Stato è necessario di appropriarsi di un protagonismo che parte dall'RSU ma che si articola nei ragionamenti con i colleghi. Guardate, un tempo nella sala docenti alcuni argomenti non erano tabù. Oggi siamo stati bravi a farci mettere così profondamente l'uno contro l'altro che certi argomenti non si toccano per evitare di litigare. Non va bene. Non va bene. O perché c'è il delatore di turno. E anche a proposito dei delatori, voglio dirvi una cosa, guardate. Il personale delle nostre scuole, singolarmente preso, è tutto degno di rispetto e di ammirazione, perché a fronte della, come dire, gogna mediatica a cui siamo sottoposti tutti quanti, in ordine alle incapacità, alla sfaticataggine, alla fannullaggine, eccetera, eccetera, noi siamo resistenti nell'ambiente professionale. E come tali tutti quanti siamo degni di considerazione e di rispetto. E pensare in partenza al delatore ci castra. Poco fa è accaduto un episodio, proprio in questo 10 minuti fa, una compagna aveva lasciato una borsa sulla sedia, ha trovato la borsa svuotata, sono uscita fuori, mi hanno chiamato subito, sono uscita fuori, dico non è possibile, lo escludo, vai in macchina, si sarà rovesciata la borsa in macchina. Oh no, non è vero, non è vero. È andata in macchina e trovato tutto. E allora almeno questo, no, almeno questo, se siamo noi, se siamo noi stessi a nutrire dubbi sul collega col quale condividiamo il tempo del lavoro, noi stiamo dando un'arma in più a chi già normalmente vuole dividerci e metterci tutto con noi. Ormai la dissidenza è 5 minuti per le conclusioni a Amedino e per le risposte specifiche a chi aveva chiesto. Sottoscrivo tutto quello che ha detto Fiorella, in maniera rozza e sintetica faccio qualche piccola aggiunta. La prima: se non vi è arrivato, ve lo siete dimenticato, fatevelo rimandare da Fiorella. Nel fascicolo d'inizio anno le abbiamo stampate. C'è una scheda che si chiama mappa dei poteri e delle competenze. Può essere utile andarla a rivedere perché lì ci sono chi fa che cosa e vari soggetti. Rispetto al tema su cui ha dato risposta ampia Fiorella, io in maniera schematica la dico così. La mobilità se ne deve occupare il sindacato. Che vuol dire la mobilità? Chiuso il portone della scuola, come ci si colloca nelle stanze della casa, attiene la mobilità. Non nelle stanze intese come classi, nelle stanze intese come sezioni staccate, IS, succursali, sedi. Vale per i docenti, dove c'è il organico unico, vale per piazza. Ok? Non c'entra niente Brunetta per noi, perché se contratta il Ministero con noi la mobilità nazionale, Brunetta non è che fa distinzione tra la scuola e l'Italia. Allora, se il Ministero contratta la mobilità, anche il dirigente della scuola deve contrattare la mobilità. Poi ci sono competenze degli organi collegiali, come li chiamano la mappa, consiglio d'istituto e collegio docente. Io la riassumo così: la didattica è competenza esclusiva del collegio, l'organizzazione e il funzionamento della scuola in quanto istituzione è competenza del consiglio d'istituto, l'organizzazione del lavoro e il salario accessorio è competenza del sindacato. C'è qualche problemino oggi. Ci sono docenti che sono arrivati da, ci sono docenti già titolari da anni nella scuola, va bene? Rimangono lì e il dirigente non li può spostare fino a che non si fa l'organico unico, cosa che l'amministrazione non ha fatto. Poi c'è chi è stato trasferito su una scuola, quindi ha la titolarità di scuola. Poi ci sono quelli che sono arrivati assegnati con incarico triennale dall'ambito, giusto? Allora, quelli che sono titolari per trasferimento in una scuola, il dirigente non li può spostare. Quelli che sono arrivati assegnati dall'ambito sono arrivati su tutta la scuola e quindi lì entra in gioco i criteri degli organi collegiali e il dirigente che rilascia in applicazione dei criteri degli organi collegiali. Quindi vale tutto quello, sottoscrivo quello che ha detto Fiorella. Insomma, il dirigente scolastico fa come gli pare, perché siamo noi a delegarlo. Se noi non lo deleghiamo perché ci riappropriamo delle competenze nostre, con tutti i sacrifici e la fatica che questo comporta, il dirigente deve dare conto. La compagna diceva: come mi tutelo? Se un dirigente fa un'assegnazione dalle classi in contrasto perché ci sono con i criteri, è un conto. Se i criteri non ci sono, vuol dire che tutta la scuola lo ha delegato a farlo. In questo secondo caso io non ho nessun potere di difendermi. Nel primo caso, io lavoratore, io docente, se ritengo ingiusti i criteri o penalizzanti quelli che adotta nei miei confronti, disattendendo i criteri degli organi collegiali, allora ho uno strumento di tutela, altrimenti non c'ho neanche quello. Poi l'idea che ci dobbiamo fare protagonisti è sottoscrivo tutto. Due collaboratori pagati col FIS, lo dice l'articolo 88,2. Non c'è scritto che si paga lo staff scelto dal dirigente scolastico. Quindi, lo ripeto, l'ho già detto prima molto in sintesi: se servono oltre ai due altri incarichi, a me piace chiamarli incarichi, allora due sono le possibilità: o se la suona e se la canta il dirigente scolastico da solo, e allora se li paga, oppure questa esigenza è condivisa, è discussa, è inserita nel piano dell'attività ed è approvata dal collegio docente. Il responsabile di plesso, l'indirizzo, il coordinatore del consiglio di classe, gli incarichi che volete, stanno nel piano, nel POF approvato dal collegio, e allora si pone il problema di applicare l'articolo 88, perché la lettera K dice che col fondo è possibile pagare altri incarichi di attività, anche sugli ATA, non solo degli docenti c'è scritto, purché inseriti nel piano dell'attività approvato in collegio. Tutta qui la differenza. Decide il dirigente da solo, si ripaga. Sono stati decisi dalla collettività e condivisi? Allora ci facciamo carico e vediamo compatibilmente con i soldi come pagare. La carta incagliata, noi l'abbiamo chiesta, non c'entra niente il bonus, chiariamo, la carta della formazione sono i famosi 500 euro, che la legge, non il sindacato, perché il sindacato non ha contrattato nulla, ha riconosciuto solo ai docenti di ruolo. Noi abbiamo fatto unitariamente ricorso perché sia riconosciuto agli educatori, agli altri e ai supplenti. Per ora abbiamo portato a casa gli educatori, perché la carta, grazie a noi al ricorso, anche il personale educativo avrà i 500 euro. È ancora in tribunale la questione degli ATA e dei precari. Non l'abbiamo mollata, però stiamo lì, cioè nel senso che deve essere il tribunale vitale in questo caso. Di pure che siamo i soli. Di pure che siamo i soli. Okay. E le altre organizzazioni sindacali, quando le chiamiamo. Ok, dai, siccome tardi vado per non vorrei dimenticare niente. I criteri ce l'hanno trasmessi per email. Vabbè, se l'ha fatto per anticipare tutto va benissimo. Non toglie nulla rispetto all'obbligo di pubblicazione al sito della scuola. Okay? Quindi quell'elenco di obblighi che ha il dirigente scolastico non vengono meno per il fatto che per email l'ha mandato in internet. Va bene, come anteprima. No, no, no, devo stare al sito istituzionale della scuola perché li deve leggere il mondo, non solo gli insegnanti a cui ha mandato la mail o WhatsApp. Se in più va bene, ma se è solo così no. No, non va bene, se è solo così non va bene, se l'ha fatto per anticipare. Intanto non va bene che renda noti solo i criteri, perché c'è tutto quell'altra roba. Poi l'ha fatto per anticipare ai docenti informati sui criteri deliberati del comitato di valutazione, va bene. Ma alla fine della fiera, cioè alla fine della partita, deve fare una relazione da mandare all'USR e la deve pubblicare sul sito. Rinnovo il contratto piattaforma funzione unica. Non è vero che non ce ne occupiamo, eh? Io invito ad andare a riguardare la piattaforma che abbiamo pubblicato a dicembre 2015, aiutami Fiorella se sbaglio, perché pensavamo di rinnovare il contratto. Se andate a rivedere quella piattaforma il tema c'è. Guardiamoci nelle palle degli occhi, però. È un po' complicato pensare che con i soldi quei pochi che ci saranno riusciamo a equiparare i salari di tutti. Però una cosa la possiamo fare, eh? Se ci sono 100 baiocchi e ce ne scappano due a testa, questi due a testa devono essere uguali per tutti. Chiaro? Su questo noi siamo nettissimi, cioè vista la motivazione, stiamo parlando del salario, aumenti tabellari, aumenti contrattuali che rivendichiamo, visto che non ci sono più le distinzioni dei tempi di gentile, cui si entrava a lavorare 18 anni, 19 con il diploma, perché oggi servono titoli uguali per tutti, abilitazione per tutti, non è più legittimata nessuna distinzione o gerarchia gentiliana, ok? Però siccome è un po' difficile equiparare, perché significa non dare niente a quelli che stanno pagando un salario un po' più alto e dare tutto per cercare di preparare a chi è, capiamo che non è praticabile, ma non si giustifica più un aumento diversificato, a parità di anzianità ovviamente. Cioè fermi restando i gradoni, per noi se ci sono 100 euro da dividere un anno me lo augurerei, no, un anno è poco. Insomma, devono essere a parità di anzianità uguali nella scuola d'infanzia, nella scuola primaria, media, secondaria e secondo grado. Cioè, pareggiare il passato è arduo, lo possiamo dichiarare, ma è impraticabile e non ce lo dobbiamo dire onestamente. Ma non si giustificano più da qui in avanti aumenti diversificati per gerarchie. E questo l'abbiamo scritto sulla piattaforma che abbiamo pubblicato. Situazione drammatica sul sostegno, ne sono consapevole, purtroppo non è materia contrattuale. Noi stiamo spingendo, abbiamo sostenuto il Ministero e qualche passetto lo sta facendo, per stabilizzare il più possibile la quota dell'organico di fatto. Perché voi sapete che gran parte dei problemi nascono dal fatto che sul diritto sono 90.000 che con la 107 sono diventati 95.000 i posti di sostegno. Nel fatto sono 132.000. Cioè c'è un 40% di posti che è organico di fatto, quindi non c'è garanzia di stabilità, non posso fare l'assunzione di ruolo, c'è la girandola dei supplenti, poi non ho quelli specializzati, devo ricorrere, eccetera, eccetera. Noi stiamo chiedendo di portare il più possibile, di stabilizzare tutto l'organico. Se passa la finanziaria come ce l'hanno raccontata, il governo pare con l'ok del Ministero, del MEF, perché la differenza economica non è grandissima, perché se io devo pagare un supplente fino al 30 giugno, se l'assumo il ruolo devo pagare due mesi più, quindi il costo è ragionevole. Noi chiediamo di stabilizzare, pare che 20.000 posti di organico di fatto, anche di ispezioni, vanno sul diritto, e nel sostegno pare che ci saranno, oltre al turnover, altri 5.000 posti che dall'organico di fatto passerà al diritto. Qui il problema è che il Ministero ha una delega anche sul sostegno, vorrebbe rivedere tutta la materia. Quindi stabilizzare il 100% dell'organico di fatto noi lo chiediamo da anni, ma è un po' complicato. C'è un segnale che va su quella strada, dobbiamo insistere e ottenere il più possibile. A proposito dell'assegnazione dei ruoli degli organi collegiali, il funzionamento della scuola, sintetizzato prima, lo decide il Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio. E se il Consiglio d'Istituto decide che si fa scuola in 5 giorni invece non su 6, decide che il tempo scuola da 30 passa a 34, e decide che invece di un pomeriggio se ne fanno 3, qualcuno li deve fare. Tra gli obblighi di servizio c'è anche, articolo 28, comma 1, andatelo a rivedere, l'attuazione delle delibere degli organi collegiali. Quindi qualcuno lo deve fare. Come? Qui attiene anche all'orario. Io sull'orario aggiungo ancora una precisazione. Sull'orario ci sono competenze didattiche e se ne deve occupare il collegio. Faccio un esempio: se 3 ore di matematica devono stare divise, oppure 2 attaccate e 1 autonoma per motivi didattici, lo dica il collegio. Ma la questione del giorno libero, la questione delle prime ore e l'ultime ore, la questione dell'orario spezzato mattina, pomeriggio, sì, no, con quali criteri e chi, e come lo compenso, perché si chiama anche intensificazione questa roba. Questa attiene anche alla contrattazione. Quindi gli aspetti didattici e professionali è competenza del collegio e si deve lavorare lì. Ma quello che attiene al lavoro e non ha ricadute sulla didattica, io questo lo voglio discutere. Lo voglio discutere al tavolo contrattuale se ci riesco, ma perlomeno voglio un'informativa con un verbale che registra le posizioni e le ufficializza. Dopodiché però, ripeto, se il Consiglio d'Istituto ha stabilito che si fa un pomeriggio in più, bisogna farlo, discutiamo come, ma non se. Scusa, partecipare gli ad bonus, io non mi sembra una gran battaglia, perché sugli ATA ricordo, forse ce ne siamo dimenticati, che un sistema di valorizzazione ce l'abbiamo nel contratto. Sugli ATA l'abbiamo ottenuto l'altro contratto, la prima, la seconda posizione economica, una forma di valorizzazione dell'occupata. Allora l'obiettivo è dare il bonus a discrezione del dirigente del DSGA Gagliata o ampliare la platea della valorizzazione e riattivandola, visto che, come dire, manca un po' di olio e sta ferma da un bel po'. Ecco, noi sugli ATA ci piace più questa, perché sarebbe anche la strada che ci piace mettere più con i docenti, cioè una valorizzazione che attiene anche a una diversa assunzione di responsabilità, un riconoscimento di carichi di lavoro, di esperienza, eccetera, eccetera. Cioè una forma di valorizzazione che non va a misurare la qualità del singolo. Allora, Amerigo, grazie. Amerigo e tutti quanti noi.